America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Siamo arrivati al 23 dicembre, oggi chiudiamo il countdown towards Christmas, verso il Natale. Ormai è soltanto questione di un paio di giorni e dunque storie natalizie. Cominciamo dalla prima. The fight is over. This evening, Speaker John Boehner, bruised politically all week by the stalemate, announced a deal. We will ask the House and Senate to approve this agreement by unanimous consent before Christmas. I politici americani non potevano permettersi di andare in vacanza senza regalare agli americani l'accordo per prolungare di 2 mesi il taglio sulle ritenute per spese sociali in busta paga. Come sapete, questa è stata una delle battaglie più dure, un braccio di ferro durissimo. Nei giorni scorsi ne abbiamo parlato. Il Senato si era messo d'accordo con una maggioranza schiacciante di 89 voti a 10, una maggioranza inusuale, bipartitica, per poter fare questo regalo a 160 milioni di americani. Alla Camera i Tea Parties si sono messi di traverso. Ecco, devo dire, questa volta gli è andata male, perché hanno dimostrato di non avere quella che poi deve essere un minimo di sensibilità politica. Alla fine, dopo un paio di chiamate del presidente, dopo un paio di telefonate dei senatori repubblicani infuriati, anche i Tea Partisti più irriducibili hanno ceduto. L'accordo è arrivato ieri in tarda serata, il voto ci sarà oggi, fra poche ore, giusto in tempo per poter confezionare un bel regalino, appunto, per 160 milioni di americani, che avranno almeno per i primi 2 mesi, ma poi sono sicuro che si metteranno d'accordo anche per il resto dell'anno, una quota parte di quei $1,500 all'anno che avrebbero ottenuto grazie appunto a questa riduzione sulle trattenute sociali in busta paga. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. E dunque eccoci alla vigilia, poi è il Natale. Cosa fanno gli americani, cosa fanno i newyorkesi per Natale? In genere gli americani festeggiano il Natale con un pranzo il 25 di dicembre e con uno strepitoso tacchino e con 1000 leccornie che si accompagnano a questo tacchino, devo dire non molto diverso dal Thanksgiving. Ci sono anche delle cose che invece fanno i newyorkesi, vorrei raccontarvele. Sono così 4 tradizioni, 4 abitudini. Intanto avete sentito la canzone Let It Snow. Se ci fosse neve, ancora la neve non l'abbiamo avuta finora, ma una delle tradizioni è quella di andare a Central Park, prendere lo slittino e scendere coi figli, coi cani, con gli amici, con queste slitte lungo queste collinette. Devo dire, alcune sono anche piuttosto ripide. Un altro appuntamento dei newyorkesi, quindi sto parlando dei newyorkesi, non dei turisti, è quello di andare a vedere il Radio City Hall, lo spettacolo delle Rockettes, uno spettacolo straordinario che si è inaugurato negli anni 30, è continuato quasi invariato fino ai nostri giorni. È uno spettacolo bellissimo, vecchie canzoni, grandi ballerine, grande spettacolo, molto molto bello. Terza cosa, molto importante da non dimenticare, Tchaikovsky, la performance dello Schiaccianoci, dove ci sono una gran quantità di bambini che recitano sul palco, e dunque i bambini si portano al Lincoln Center, al David Koch Theater, rinnovato da pochissimo, per vedere questa straordinaria reinterpretazione di una grande fiaba natalizia con musica appunto di Tchaikovsky e coreografia di Balanchine. Infine, la quarta cosa da fare, sempre coi ragazzi, coi ragazzini, è quella di pattinare sul ghiaccio. Ci sono 2 posti classici dove andare. C'è il Ring al Central Park, che è meraviglioso perché attraverso gli alberi si vedono sullo sfondo i grattacieli, e poi c'è naturalmente il pattinaggio di Rockefeller Center, e si pattina sotto questo straordinario albero di Natale illuminato. Dunque grande, grande atmosfera natalizia. Davanti a questo pattinaggio, sopra c'è questo vialetto con questi angeli angeli stilizzati che soffiano sulle trombe, al di là Saks Fifth Avenue con le vetrine illuminate con immagini del Natale, code di gente, St. Patrick, la cattedrale subito di fianco, insomma è una specie di trionfo di tutto quello che può essere l'ideale di una festa natalizia per strada. Vi consiglio, se siete a New York, se ci venite o se verrete l'anno prossimo, di tener presente queste cose da fare che sono proprio per i newyorkesi. E poi ci sono le feste a casa. Beh, i newyorkesi, la città può sembrare caotica, può sembrare dispersiva, però poi ci sono quelli che in questa città ci vivono, coi figli che vanno a scuola, vita molto normale, e ci sono una gran quantità di feste organizzate nelle case dove, visto che poi ci si vede poco durante l'anno perché il lavoro travolge, gli impegni travolgono, alla fine ecco che amici, familiari, cugini, parenti si ritrovano in una quantità sterminata di cocktails, cene, parties dove si rivedono i vecchi amici. Infine, notizia nella notizia, cosa succederà il giorno di Natale? Devo dire, questa è la vera cosa alla fine, e cioè il basket. Voi ricorderete che c'è stato lo sciopero del basket, gli americani disperati. Il basket è poi lo sport, uno dei grandi sport davvero americano, cioè qua ci sono quattro sport: il baseball, il football, l'hockey su ghiaccio e il basket, e ciascuno ha un suo peso specifico equivalente. Ebbene, che succederà a Natale? Lo sciopero è finito, si sono messi d'accordo, e quindi nel giorno di Natale ci saranno una gran quantità di partite molto importanti, a cominciare dalla prima, perché le partite saranno distribuite lungo un arco di 12 ore, ci saranno squadre straordinarie, e quindi subito dopo il pranzo di Natale, di corsa davanti al televisore o allo stadio, a cominciare dal Madison Square Garden, dove alle 2:30 ci saranno i Boston Celtics contro i Knicks, poi ci saranno i Dallas Mavericks contro i Miami Heat, questa è una partita straordinaria, ci fu la finale dell'anno scorso, a Los Angeles i Lakers sfideranno i Chicago Bulls, Orlando Magic e Oklahoma Thunder, Clippers a Oakland contro i Golden State Warriors alle 10:30 di sera. Dunque, Natale col basketball. Ho con me i microfoni di America 24 per Paolo Bozzano, nostro guru, ispiratore tecnologico, nonché giornalista di America 24. Buongiorno Pierpaolo. Buongiorno. Allora, Pierpaolo naturalmente è un appassionato di basket. Raccontaci qualche retroscena. Cominciamo dallo sciopero. Ma cosa è successo? Come si sono messi d'accordo? Dopo mesi di tensione, di accordi mancati tra giocatori e proprietari delle squadre, finalmente si sono messi d'accordo, adesso possiamo tornare davanti alla TV. Quindi sono sempre i soldi, alla fine anche qui prima di Natale bisognava farlo, come i politici si sono messi d'accordo all'ultimo secondo, anche qui, anche sul basket bisogna mettersi d'accordo, bisogna che gli americani siano contenti, altrimenti pensa se gli elevavano questi due regali di Natale, beh magari c'era la rivoluzione. Certo, altro che rivoluzione. L'attesa tuttavia rende il regalo di Natale, sei derby, ancora più bello. Ecco, c'è stata un'altra occasione in cui ci sono stati sei derby di fila? Non ricordo come in questa circostanza. Tuttavia, non solo si è fermato il campionato, si è fermato anche il mercato. Quindi gli appassionati per mesi sono rimasti senza notizie, senza fotografie e senza nulla di cui parlare. E quindi i poveri giornalisti, anche loro senza lavoro, i giornalisti sportivi. Esatto. E improvvisamente, finito lo sciopero, anche il mercato è ricominciato. Le squadre si sono rinnovate, ci sono stati alcuni grandi colpi, in particolare a Los Angeles, dove non i Lakers, la squadra principale della città, ma i piccoli Clippers hanno fatto il grande colpo ottenendo Chris Paul, uno dei grandissimi giocatori giovani dell'NBA. Parliamo di New York, Pierpaolo. New York, i Knicks, come stanno andando? Finalmente sono fortissimi, hanno fatto grandi acquisti e i newyorkesi, dopo 10 anni di digiuno, finalmente possono sperare di andare molto forte quest'anno. New York fortissima, quindi vinceranno loro il campionato? Non credo quest'anno. E chi vince? Io penso che sarà l'anno di Miami. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, siamo alla fine del countdown natalizio e dunque chiudiamo come Good Omen con i Christmas Party Kings. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi augura di nuovo buon Natale, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24